sei svegliato sdraiato nel cesso. Man in the mirror come Michael Jackson. Adesso nessun deniro di successo. La tua giornata, la faccia straziata del tuo riflesso. Ci avrei scommesso, non mi avresti compreso. E per come stai preso, si vede che ti sei già reso. O sei teso, o sono io leso e non mi scuso. È come l'acido di un trip che non è ancora sceso, giuro. Perseguito il tuo sonno con il suono muso duro. E c'ho brandelli sanguinanti di futuro appesi al muro. Zero tregua, lascio che la notte mi insegua. Spiriti della notte, ma la cricca si dilegua. Ancora un morto per alzare la media. Yeah. E allora non posso stare gomito gomito con chi mi dai conati di vomito, con chi è morto nelle vene sangue solido. Il gruppo che ti spacca, ti spacca. Nido something che resta sulla traccia, la botta sulla faccia, sulla faccia. Nido something, il fuoco sulla traccia, il gruppo che ti spacca, ti spacca. Nido something che resta sulla traccia, la botta sulla faccia, sulla faccia. Nido something suona e fa così. Dalle mie parti è attualità. Crescere convinto di fare il salto di qualità. Quando qua è come dice papà, conta soltanto la quantità. Quando ho amici che vivono in roulotte, altri che invece girano in cadette. Aspetto i soldi per giocarli alla roulette. Torno lo boss, come in The Snatch. Purtroppo è così, anche se non voglio. Gli sbirri all'autogrill ti sparano per sbaglio, poi cambiano bersaglio. Spera che il prossimo non sia tuo figlio. Siamo tutti diversi, siamo tutti malati. Per i tempi che corrono non siamo cambiati. E come al solito stacchi, più invecchi più ti sbatti. Perché non contano le idee, contano i fatti. Il gruppo che ti spacca, spacca. Nido something che resta sulla traccia, la botta sulla faccia, sulla faccia. Nido something, il fuoco sulla traccia. Il gruppo che ti spacca, che ti spacca. Nido something che resta sulla traccia, la botta sulla faccia, sulla faccia. Nido something suona e fa. Accusi il colpo come un pugno sulla bocca dello stomaco. Finite vomitando come in ottobre a Monaco. Oh, NS sulla cima, botta di adrenalina. Ci sfidi, torni a casa privo d'autostima. Resta pure dove sei, hai rotto il cazzo. Cerchi spazio, lo trovi solo su MySpace. So già chi sei, privo di imbarazzo. Finisci nell'acido come in Batman Double Face. Cattivo, senza motivo ti descrivo. Legato alle rotaie, con un treno in arrivo. Nocivo, non bevo per dimenticare, ma per non dimenticare che sono ancora vivo. Da chi si sente, fai così schifo che la tua ragazza scopa solamente a luci spente. Fote niente, vai a fondo, finite tutte a terra, sì, come dopo un giro tondo. Il gruppo che ti spacca, ti spacca. Nido something che resta sulla traccia, la botta sulla faccia, sulla faccia. Nido something, il fuoco sulla traccia, il gruppo che ti spacca, ti spacca. Nido something che resta sulla traccia, la botta sulla faccia, sulla